Storie italiane. Mangita e Larina. C'era una volta, nella città lacustre di Luzon, un pescatore con le sue due figlie, Mangita e Larina. Mangita era la figlia maggiore ed era molto gentile e amorevole con tutti. La più giovane, Larina, era davvero completamente diversa da sua sorella. Era cattiva con gli altri, catturava le farfalle e le racchiudeva in bottiglie per divertimento e spesso parlava maleducatamente con sua sorella. Mangita faceva tutte le faccende di casa e faceva sì che quando suo padre tornava a casa da lavoro, affamato ed esausto, il suo cibo fosse cucinato e il suo letto pronto per farlo riposare. Larina non aveva mai aiutato sua sorella e si preoccupava ancora meno di suo padre. Trascorreva il suo tempo seduta vicino al lago, pettinandosi i capelli e guardando il suo riflesso. Sono la ragazza più bella della città o no? Oh, chi sto prendendo in giro? Non c'è nessuno più bello di me in tutto il regno. Figuriamoci in questa piccola, povera città. Un giorno il pescatore si sentì molto male e morì. Mangita ne fu devastata. Pianse e pianse per ore. Ma presto si rese conto che la responsabilità della sua famiglia ora ricadeva sulle sue spalle. Si calmò e andò a parlare a Larina della sua decisione. Larina, come al solito, era vicina al lago, ossessionata dal suo aspetto. Sorella, sono qui per parlarti di qualcosa di importante. Ah, vattene! Non vedi che sono occupata? Beh, non prenderò molto del tuo tempo. Ah, che cosa c'è? Beh, dal momento che nostro padre non è più con noi, non abbiamo nessuno che guadagni per noi. Quindi, ho deciso di andare a vendere pesce al mercato ogni giorno. Non so se sarà abbastanza, ma farò del mio meglio. Ok, qualunque cosa, adesso vattene. Non devi essere così scortese con me. Ti voglio bene, lo sai? Ah, non ho bisogno del tuo amore, sorella. Sono nata nella famiglia sbagliata. Ma sappi che le cose non rimarranno sempre uguali. Sono destinata a diventare una regina un giorno e lasciare questa città miserabile, inutile e tutti voi. Il mio principe azzurro arriverà, vedrai. Mangita fece un sospiro. Oh, non desidero altro che la tua felicità, sorellina. Passarono i giorni e Mangita lavorò molto duramente per guadagnare per se stessa e sua sorella. Un giorno tornò a casa molto preoccupata perché aveva guadagnato solo poche monete. Larina, mi dispiace, ma quello che guadagno non è abbastanza per nutrire noi due. Mi aiuteresti a vendere il pesce da domani? Che cosa? Che cosa hai appena detto? Ti sto chiedendo di aiutarmi a vendere il pesce, in modo che possiamo guadagnare abbastanza. Per favore, sorella. Essere fuori di testa. Sono una futura regina. Vuoi che diventi una contadina? Impossibile. Ma, sorella... Abbastanza. Vado al lago. Mangita, molto triste, si sedette e iniziò a piangere. Larina uscì di casa e vide una vecchia signora in piedi. Cosa vuoi, vecchia? Oh, cara bambina, ho fame e sete e ho camminato per chilometri. Saresti così gentile da darmi una pagnotta da mangiare e un po' d'acqua da bere? Ti sembro una serva? Sparisci dalla mia vista. Larina spinse la vecchia lontana da sé e se ne andò. Ah, oh cielo! Udendo il pianto di una donna anziana, Mangita uscì subito di casa. Rimase inorridita nel vedere la donna a terra. Oh, mi dispiace così tanto. Mangita aiutò la vecchia ad alzarsi e la portò dentro casa. La vecchia le spiegò che la rina l'aveva spinta. Mangita ne fu scioccata. Oh, mi dispiace, signora. Mia sorella a volte può essere un po' scortese. Oh, va bene. Sembri essere più gentile. Saresti così gentile da darmi un po' di pane da mangiare e acqua da bere? Mi faresti un gran favore. Mangita annuì e le portò l'unico pane che aveva. Le diede anche un bicchiere d'acqua. La vecchia mangiò felicemente il pane e beve l'acqua. Oh, grazie mille, bambina mia. Sei un'anima gentile. Detto questo, la vecchia se ne andò. Mangita andò a dormire a stomaco vuoto. Pochi giorni dopo, Mangita si ammalò e fu costretta a letto. Alla rina, come al solito, non importò granché. Ah, sorella, per favore vai al mercato e vendi il pesce. Non abbiamo risparmi. Non vado da nessuna parte, te lo dico per l'ultima volta. Detto questo, la rina uscì di casa e incontrò nuovamente l'anziana signora. Di nuovo tu? Cosa vuoi ora? Ho sentito che Mangita non sta bene. Le ho portato questi semi che la aiuteranno a riprendersi. Lasciami entrare per poterle dare un seme ogni ora e prendermi cura di lei. Vedrai che al mattino starà proprio bene. La rina digrignò i denti, perché non voleva che Mangita si riprendesse. Finse di sorridere. Ah, non devi preoccuparti. Lei è mia sorella. Dammi semi. Mi prenderò io cura di lei. Sei sicura? Ah, assolutamente. Allora va bene. La rina prese il sacco di semi dall'anziana signora. La febbre di Mangita peggiorò e per tutta la notte non riuscì a dormire. Continuava a rigirarsi nel suo letto. I suoi occhi iniziarono ad ingiallire. La rina provò un'immensa gioia nel veder soffrire sua sorella. Non le disse nemmeno una volta dei semi e nascose la borsa sotto il letto. La mattina dopo, quando si svegliò, trovò Mangita madida di sudore. Le sorrise e mentre stava per uscire di casa, l'anziana signora entrò. Ah? Tu! Come osi entrare nella nostra casa senza permesso? L'anziana signora sorrise e schioccò le dita. Immediatamente si trasformò in un bell'uomo. Cosa? Tu sei un angelo? Non sono un angelo, sono un principe. Principe Steven di House Valley Dome. Ho poteri mistici e sono stato in giro a cercare la donna più gentile sulla terra per sposarla. E devo dire che ho finalmente trovato la ragazza giusta. Se mi vorrà. Beh, certo, mio principe. Non hai idea di quanto abbia aspettato questo giorno. Andiamo lontano da questo posto, viviamo felici e contenti. Calma, anima malvagia. Non stavo parlando di te. Eh? Il principe Steven volse lo sguardo verso Mangita e chiuse gli occhi. Una luce dorata circondò il suo corpo. Mangita, che giaceva sul letto con gli occhi chiusi, venne anche lei illuminata dalla luce dorata. La rina osservò tutto questo con grande stupore. Presto Mangita aprì gli occhi e si alzò, sentendosi perfettamente bene. Il principe Steven aprì gli occhi e la luce dorata svanì. Mangita rimase sbalordita, non aveva idea di che cosa stesse succedendo. Il principe Steven sorrise e poi le spiegò tutto. Sono stato fuori tutta la notte a vegliare su di te. Tua sorella non solo non ti ha dato i semi, ma ha anche pregato perché tu peggiorassi. Mangita fu devastata da queste parole. Si voltò verso sua sorella. Sorella, perché? Perché mi odi così tanto? Oh, per favore, non ho tempo per tutto questo dramma. Vattene con il tuo principe e lasciami vivere. Non mi sei mai piaciuta e non mi piacerai mai, mai. Le lacrime sgorgarono dagli occhi di Mangita, ma il principe si fece avanti per consolarla. Non sentirti triste per lei. Non merita il tuo amore e la tua gentilezza. Andiamo via da qui, nel mio regno. Vorrei che tu diventassi mia sposa e io tuo marito. Ma lei è mia sorella? Beh, alcune persone non cambiano mai. È meglio se te ne rendi conto ora. Avete finito? Sta diventando stancante ora. Mangita guardò il principe Steven e annuì. Il principe Steven fece schioccare le dita e i due svanirono nel nulla. Mangita e il principe Steven si sposarono e fecero una grande festa. E i due vissero una vita felice e contenta. La Rina, invece, rimase tale e quale, scortese e crudele con gli altri, senza cambiare neanche un po'. Mangita, tuttavia, fece in modo che sua sorella avesse abbastanza cibo a sua insaputa. Il principe Steven spesso rideva della speranza di Mangita di cambiare sua sorella. Beh, alcune persone non cambiano mai. Mia sorella cambierà un giorno, lo so. Oh, non sto parlando di lei. Sto parlando di te e della tua fiducia in lei.